Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Il polistirolo espanso o PSE è senza dubbio uno degli imballaggi più utilizzati, eppure solo una percentuale minima degli oltre 8 milioni e mezzo di metri cubi di polistirolo che ogni anno vengono utilizzati nel nostro paese viene riciclata. Perché e quale può essere una via per evitare che questo materiale finisca in un inceneritore? Ebbene, per parlare di questo tema andiamo all'Enea, che di recente ha ospitato lo svolgimento di alcune tesi sperimentali volte proprio a cercare una risposta al problema del riciclo del polistirolo. Ne parliamo con Loris Pietrelli, ricercatore dell'Enea del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali. Buonasera, buonasera Pietrelli. Buonasera. Allora, senta, prima di tutto le chiedo perché il polistirolo si ricicla così poco e come si ricicla quel poco che appunto oggi viene recuperato. Molto semplice, polistirolo espanso se ne recupera poco per il semplice motivo che pesa poco. È molto voluminoso. Molto voluminoso, pesa circa 13-15 kg a metro cubo. Quindi questo significa che dovremmo trasportare aria e qui di conseguenza è poco economico. Tant'è che nella frazione plastiche della raccolta differenziata raramente è presente il polistirolo espanso. Ecco, per capirsi, un bilico finirebbe per trasportare qualche quintale di polistirolo, ed è un assurdo perché bisogna spostare un mezzo che pesa decine di tonnellate, no? Guardi, tanto per rendere idea di cosa significa, in Italia vengono annualmente venduti circa 120.000 tonnellate di polistirolo espanso, cioè sono 12 milioni di metri cubi. Se noi dividessimo questo numero per il volume del ghiacciaio del Monte Bianco, noi ogni anno potremmo fabbricare oltre 700 ghiacciai. Questo dato per farle capire la massa, no? Il volume di Sì. Sono vere e proprie montagne, diciamo così, esatto, di polistirolo. Ecco, quel poco che viene recuperato, come viene recuperato? Il polistirolo espanso oggi viene riciclato frantumandolo. Sostanzialmente viene frantumato per riottenere le palline che poi vengono riaggregate per ottenere nuovi pannelli. Ecco, però, come dicevamo, questa è una pratica assolutamente molto limitata. Veniamo invece al lavoro svolto presso il vostro dipartimento, che è anche stato il lavoro di tesi di due studenti, Francesco Iacucci e Noemi Pietrunti. Ecco, qual è stata la soluzione a cui insieme siete pervenuti? La soluzione è stata quella di evitare il trasporto di aria e quindi di portare in giro, diciamo, di trasportare il polistirolo sciolto. Cioè quello di riottenere il polistirene, che poi è il polimero con cui di base, certo. Di base, e quindi l'abbiamo sciolto. Abbiamo sciolto con che cosa? Abbiamo individuato una serie di solventi in grado di scioglierlo, e uno in particolare ci ha dato ottime soddisfazioni perché oltre ad essere un solvente di origine naturale, anche profumato, addirittura ha il vantaggio di poter sciogliere una quantità molto elevata, oltre il rapporto 1 a 1, 1 a 2 in peso, che in volume, considerato che il polistirolo non pesa niente, vuol dire che io butto dentro un metro cubo di polistirolo e mi ritrovo 10-20 litri. No? Esatto, questo fondamentalmente. Esatto, e quindi come può capire c'è un enorme risparmio in termini di trasporto. Esatto, ridotto circa un trentesimo, forse addirittura più di un trentesimo. Ecco, più di un trentesimo. Quindi, insomma, come potrebbe funzionare un modello, diciamo, di raccolta e riciclo del polistirolo? Ma noi abbiamo pensato di utilizzare dei serbatoi da porre, per esempio, vicino ai centri commerciali, nei porti, laddove comunque si o nei centri, nelle isole ecologiche, dove, diciamo, noi cittadini conferiamo il nostro polistirolo, nei supermercati o nei porti, dove si sballa un sacco di roba, quindi ci sono enormi quantitativi di polistirolo da smaltire. Esatto, quindi andiamo lì e gli mettiamo che cosa? Ci mettiamo un serbatoio contenente questo solvente, quindi si tratta solo di aprire il serbatoio, buttare dentro il polistirolo. E si scioglie. E si scioglie. E una volta raggiunta la densità ottimale per il riciclaggio, per il recupero, si può recuperare quel contenitore e poi andare in un piccolo impianto dove attraverso la distillazione si può recuperare il solvente e riciclarlo per un altro giro, mentre il polistirene torna a essere polistirolo. Praticamente abbiamo visto è paro quello vergine. E questo è importante sottolinearlo, insomma, perché non sempre si riesce a ottenere al termine di un processo di riciclo lo stesso materiale da cui si era partiti. Molto spesso si ottiene un materiale di qualità inferiore. Va bene, grazie allora Loris Pietrelli. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata.